e vissi a Roma sotto il buono Augusto, al tempo degli dèi falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non salvi il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Oh, sei tu quel Virgilio e quella fonte che spande di parlarsi largo fiume? Risposi lui con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'han fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tener altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio. Che questa bestia, per la qual tu gride, non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E da natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza e amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Camilla, Euriolo Eturno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partilla. Ond'io, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui, ed io sarò tua guida, e trarrotti di qui per luogo eterno, ov' udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida. E vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle qua, poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Che quello imperador che la su regna, per chi fu ribellante la sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città dell'alto seggio, o felice colui cui vi legge. Ed io a lui, poeta, i ti richieggio, per quello iddio che tu non conoscesti, acciò ch'io fugga questo male peggio, che tu mi meni là, dov'or dicesti, sì chi vegga la porta di San Pietro, e color che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, ed io li tenni dietro. Fine del canto primo.